Hola, attenzione Franco, ci sei? Attento Gianni, doppio Russia, ascolti qua. Questa piccola modulazione da Sassari, K. Santiago 7, la radio a bomba. Che regalo? Quanto ti sto arrivando? Santiago 7, radio a bomba. Va bene. Mi lo senti? Scusa. L'ala 68 che ha modificato, senti qua questa piccola modulazione che ha... C'è l'Alecco, cosa non ce l'ha? Tu hai detto che l'Ecco non ne aveva, e mira l'Ecco, e come ti si mira? Ero convinto che non ce n'era la regata. Cazzo è il radio che va? Cava di positivo, va bene allora così. Preciso, ma non è messa dove ti ho detto io la direzione, Franco. Cosa? Non ho capito Gianni, dimmi. Sei diretta verso dove ti ho detto io, ma la boomerang che stai usando? Cava. E la direzione qual è messa? Quella che ti ho detto io. Direzione Sassari, forse bisogna girare ancora. E ti viene bene a girare? Ma ti ho capito questo passaggio. Perché il basso ti sta arrivando? Santiago 7, Radio 5. Mi sta arrivando io 7, ma la pupa del franco. No, adesso la cosa qua, adesso va bene, dai, fai un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5. Santiago 9, Radio 5, qua, la zona di campagna, avevo toccato il coso qua. Guarda a me, adesso come mi stai ascoltando, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre 7, sì, appena appena più di 7 adesso, con picchi positivi. Ah, ma già va bene, dai. Santiago 9, Radio 5, qua sei arrivato. Nella zona di campagna, K. Anda bene, dai, già va bene. Va bene Meda, vado a piene Meda. Ok, dai, questo qua, bene va di radio. Sì, di radio sì. Ma l'hai cavato, torna l'antenna, non me l'hai fatta sentire come usciva qua. Non la senti come sta uscendo. Questo è il 68, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, 1, 2, 3, cava e cava. L'antenna che l'hai cavato, va giudizio, non me l'hai fatta sentire come usciva. No, ci ho rimesso la boomerang perché praticamente il segnale era lo stesso, non c'era il guadagno, era uguale. Va qui, loro ha stessi segnali, ci aveva 5 di DB in più rispetto a questa. Quindi ho detto dai, ti lascio la boomerang, per 5 di DB di guadagno il segnale in più mi conviene tenermi questa, capito? Cazzo, sono pochi qui, 5 DB non sono pochi. Vabbè, se ero a te ti sarei arrivato 9 adesso, dai, 2 di guadagno, e vabbè, dai, lascio quella adesso. Non a giocare, dura una farà tutto, dura la sta, dura farà. Speriamo che sia deciso adesso. Adesso lascio così. Cava, dai. Va bene, prova a farmi la doccia, dai, ci sentiamo. Cava, vabbè, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao, devi stare brunendo già. Bella giornata, oggi avete trovato una giornata veramente bella. Capo, una bellissima giornata, di lusso, va benissimo. Ok, dai, ci sentiamo fra. Attenzione 10. Non c'è nessuno. Canale 30, buonasera. Allora. Hola. Attenzione, capo. Attento, Antonio Bombolo, se ascolti questa piccola modulazione, cambio. Capo che ti ascolta, sei Santiago Lopez, fra. Cava di positivo, la radio com'è, cambio. Buona la radio, buona. E tu come? non mi ascolti lì? La chiamo, no, per radio Super 5. È lo stesso segnale, dai. Vabbè, quindi già va bene la campagna, dai, K che va bene. Però sei zero stazionario, sei. Non ho capito, no. Ho detto già va bene, ho detto... Qua sì, zero di stazionarie. Perché è pieno di stazionarie? Ho detto zero sì di stazionarie. Positivo. Non ti ho detto mica pieno, no? No, no, sono a zero di stazionarie, tu. Va bene così. Cappa, dai, già va bene. Andava. Ho appena acceso, mi... di Cazzighi, c'è la radio. No, già ti ascolto bene qua, dai, non ci sono problemi, gappa gappa. E che baracchino c'hai? Adesso sto andando col magno, cambio. Va bene, dai. Gappa gappa. Andar bene me, dai, gappa. Eia, eia. Beh, però, tutto a posto? Gappa, tutto a posto, tutto a posto. Tutto ok, tutto ok. Guarda da questo passaggio. Fa l'altro passaggio che è meglio. Perché se sceso a Santiago 5. Ti ho detto, fra, fai l'altro passaggio che è meglio. Se sceso a Santiago 5. Fai da Santiago 5 a Santiago 9. Questo è l'altro passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Lascia così. Gara gara, andate così. Eia, che zona è? Zona Marcia Dagliastro. È proprio bassa bassa la zona, Se no è arrivata ancora più forte. Va più che bene, anzi, va benissimo così. Di molto è salita l'antenna, no? O di poco? 7,5 metri. E di palo quanto c'è? Allora 7,5 più 12 metri in tutto è. Non è un gran che però, non è che si è forte forte forte forte qua. E di andati a meglio la boomerang. Sto usando la boomerang infatti adesso. Capa, tu mi hai detto che hai messo l'altra antenna, hai messo. Prova a girarla. Capa, tu mi hai detto che hai messo quell'antenna alta, alta. Mi hai detto. Vabbè, a te, sto finendo delle cosette qua, dai. Ehi, fai, fai. Dai che mi sento un attimo che devo fare roba, ok? C'è qualcuno? Hola. Aspetta, dove sono al telefono? Già le prendo subito. Chi c'è qua? Io ci sono. Oh, ciao tu. Stai trattenendo a Gianni. A chi? A Gianni il profeta. E poi ci sono anche io qua. Aspetta, dove le prendo subito. Oh, ciao qua. No, perché l'ho sentito adesso, proprio un minuto fa, e cioè, sto sentendo gli splatteri di Antonio Bombo. I colpi che ce li ha se li tiene, non proprio sono vannuta io. Sì, è proprio così, in effetti è così. Poi sei abbastanza lontano, dal canale 10 al canale 30, abbastanza lontano, per cui pazienza, no, ma lo stavo dicendo così, perché... Solo per fare cronaca mia, niente di più. Non è che si stava lamentando perché stavi sul bando, no, assolutamente no. Aspetta, no, noi siamo qua perché le canadici non si può più parlare, Giulio. Sono portanti, fischi, rutti, allora abbiamo deciso io, Antonio e qualche altro di starcene qua. Quindi ci darà la prova. Quando il canale 10 ritornerà pulito come era prima, allora ritorneremo. Non si può parlare, no? Uno si deve rilassare 10 minuti e deve stare a sentire tutti questi maleducati. Quindi siamo rimasti qua io e Antonio. Ok, ho capito. No, io non lo sapevo, cioè ho sentito a Gianni che ho appena acceso, però dice Antonio è sul canale 30, e sono per quello che sono passato qua, non pensavo che eravate qua assolutamente. Ehi, ehi, sì, sì, no, io no, noi stiamo parlando qua perché no, non se ne può più, non se ne può più. Come si fa? Hai capito? Ma io perché sto entrando pochissimo, proprio per lo stesso motivo, no? Non ne vale la pena lì a stare lì a prendere tempo davanti per sentire cosa voi. Ero tutta la sera lì davanti alla televisione, un po' col tablet, un po' con la televisione, e esce che tanto devo chiudere anche le finestre di su. E visto che ero qua, allora acceso e ho sentito, proprio in quell'istante, ho sentito a Gianni che stava dicendo, sento sul 30, mi sta splatterando Antonio, tutto lì, anch'io la penso così, no, non mi va più, ecco, non mi va più perché non c'è l'armonia, non è il caso di stare lì a perdere tempo per sentire che cosa, pur, boh, vabbè, dai, mi prende Claudio. Che... KK, no Giulio, ma infatti noi facciamo due chiacchiere qua, ieri siamo stati un'oretta, tranquilli, senza portanti, senza nessuno che rompa le palle. Non si può più, davvero. Ormai sanno tutti che siamo tutti lì e vengono lì a rompere le scatole. Ieri c'era un portante, Fischi, Rutti, Pernacchie, ma io mi voglio rilassare 10 minuti, quindi dove Antonio, io andiamo al 30, mandato anche un messaggio a Massimiliano e noi siamo qua, poi ti ripeto, io c'ho Roberto che sta parlando, lo sento un pochino perché col Galaxy lo sento, però fastidio non me ne danno, non me ne frega niente. Non mi interessa, abbiamo 40 canali a disposizione e quindi ognuno è libero di andare dove vuole e parlare con chi vuole. Io non c'ho niente con nessuno, però c'è troppo casino il canale 10. Non so perché, comunque non è più pulito come prima. Non c'è armonia, non c'è dialogo, non c'è niente, quindi io preferisco starmene un po' in disparte. Tutto qua. Avanti a tu. Dove mi senti lì ai punti, o Giulio? Sì, come sempre tu, non c'è problema, ti sento bene, a voglia. Lo so, purtroppo ormai sembra che sia una routine di tutti i giorni, sempre le solite cose, sempre controlli, super controlli, cretinati, insomma, di ogni genere, per quello appunto che mi sto un po' trattenendo di fare questione. Cosa fai questione se non c'è un argomento, non c'è niente, per sentire sempre le solite cose, non mi interessa più di tanto. Infatti sto passando il tempo in altri modi e basta, niente, stare lì a... Vabbè, tanto i miei anni me li sono fatti, per cui non è che sono lì a rimpiangere niente, assolutamente no. Non vi guadagno nulla e non vi beggio nulla, si dice a Sassari, davanti qua. Si conferma, ma infatti neanche io ci guadagno niente, non ci perdo niente. Io quando entro in radio voglio stare tranquillo e sereno, ti ripeto, va, c'è Antonio qua che te lo può dire. Non si può più, ogni volta siamo in 4, in 5, in 6, avevo un aborto di Gesù Cristo. Anche ieri chi rottava, chi faceva, chi fischiava cercando il cane, ma basta, cioè mi sono stufato, tanto io andiamo al 30, va, non me la fotti nulla. Cioè poi, ti ripeto, io non c'è niente con nessuno, se il canale torna pulito com'era, a me mi fa piacere, anche perché sono uno dei fondatori del canale 10, quindi mi fa piacere. Se così non è, che facciano questione in mezzo al bairame, a me non mi interessa. E se me ne devo andare ancora più in alto, me ne vado ancora più in alto, non è un problema, no? Non devo chiedere il permesso a nessuno, vai a tu. Alla fine cosa vuoi fare? È così e basta, e via. Cioè, se è così non si bocca, non si bocca. Però dai, in qualche maniera ci si riesce sempre di fare un po' di questione in tranquillità. io già sono, cioè, a me mi piace la radio, mi piace anche tanto, però queste cose, cioè, danno un po' fastidio, danno, va, purtroppo. E poi cominci a capire certe cose, cominci a capire, ti fa ancora più male, ti fa. La gente che magari, cioè, che poi, cioè, e lì e magari ti rompe le scatole, cioè, capito, lasciamo perdere, va, che è meglio, se non vai Muro San Gamaro, che è meglio. Infatti non ne vale la pena, assolutamente no, ma ho visto che la gente sta stancando più del tutto, addirittura il PMR, boh, non lo trattene più nessuno, qualche volta, adesso ho acceso, c'è Gio Maria, c'è sul PMR, l'altro non so che sia, boh. E così, purtroppo è così, senza dimenticarci che ci sono anche i canali sotto. Aspetta un attimo. Al limite ci sono anche i canali sotto, e quello non li usiamo mai li usiamo, ma comunque fin quando non scoprono questo sul 30, poi arrivano qua e succede la stessa storia del 10 e così via, tu mi dirai, e poi ci spostiamo di nuovo, certo, quello sì, però no, la minestra non è che cambia. Sempre Brodino, là. No, non è pasta asciutta, è sempre Brodino la frequenza, vai là. Aspettate un attimino. Allora, io non sto criticando, prima di tutto non sto criticando a nessuno, prima di tutto. Secondo, ho salutato, me ne sono rivenuto qua perché voglio modulare qua, perché non mi va di certe cose. Quindi dove sta il problema? Cioè, è sempre gasino. Dove sta il problema? Può capitare. Ma io non sto criticando nessuno. Io solo ho detto che ci sono cose che non vanno bene. Ti stai lamentando, ho detto, ti sei spostato il canale senza dire mi sto spostando. Un ciao, niente, mi ho chiamato come niente fosse. Sei andato non da educato, tutto qua. Non mi interessa il resto, ok? Ciao, ciao. L'ho salutato, siete voi che non avete sentito. Forse c'è una sovramodulazione, capito? Ma non è che mi sto lamentando di quello. Io mi sto lamentando che c'erano cose che non andavano bene, punto. Oh, se tu arrivavi più o più dove ero io in macchina, non è colpa mia, no, è colpa dell'etere, quindi. Dunque, ok, ciao. No, ma siamo anche noi qua comunque, buonasera a Torino. Ma non ti ha giudito nulla, no, Tony? Vabbè, ma non fare polemica, tanto dai, io non so cosa è successo, no, non mi interessa saperlo, però io ho 40 canali a disposizione, sono libero di andare dove mi pare piace, non è che devo dare, o devo chiedere il permesso al canale 10. Quando, ripeto, il canale 10 tornerà come era anni fa, allora si potrà modulare, io non devo stare in mezzo alle pernacchie, alle portanti, ai fischi, a balle, poi va. Quando voglio parlare, io voglio parlare tranquillo e sereno, con chi devo parlare, con tutti, perché io parlo con tutti, non c'è niente con nessuno proprio. Voglio anche ascoltare le altre persone. Ieri, quando è da poco, c'era un casino nero, quindi ho detto, se ne va un po' sul 30 a chiacchierare. Poi chi vuole mettere appresso, mette appresso, il canale non è il mio, attenzione. Se mi va di parlare, con chi entra parlo, se non mi va di parlare sto zitto. Nessuno mi può dire il contrario, nessuno mi deve dire a me personalmente quello che devo fare. Punto e a capo. Avanti Giulio, un attimino giù che riprendi tu che devo fare una telefonata urgente. Se domani mattina devo fare una questa greca e voglio sapere se viene o non viene. Riprendi tu Giulio. Ok, riprendo io. Ehi, vabbè, ma comunque Antonio, nessuno ti sta dicendo niente, no? Ci mancherebbe altro, no? E poi dai, ma non sarebbe ora di fare gli uomini a noi anziché i vicinesi? Io ripeto, poc'anzi ho detto, non so se mi avete ascoltato, che la frequenza è Brodino, non è pasta asciutta, è Brodino, e Brodino rimarrà sempre, per cui non mi sembra proprio il caso di andare lì né a sindacare e soprattutto nemmeno a puntualizzare l'atteggiamento o i discorsi di qualcuno. L'unica cosa che a me mi danno fastidio è il fatto che magari a volte sento parolacce, questo non mi va perché le parolacce a casa mia non esistono, per cui non voglio nemmeno sentirle. nemmeno al baracchino, anche se solitamente io sono lontano dalle orecchie della famiglia, perché io la stazione ce l'ho in un punto della casa dove nessuno oltre a me può ascoltare, e anche perché, ripeto, quando vedo che c'è maretta allora abbasso il volume e ciccia o indosso le cuffie. Però non sarebbe bello solo quello, ma per il resto poi che se ne frega, tanto ripeto, ormai ho 49 anni di frequenza e figurati se queste cose non mi fanno un neccato e ne freddo, insomma, ecco, non me ne frega più niente. Ciao Tonino, se si all'ascolto, avanti. Tonino non c'è, riprendi tu Antu, vai. Cappa, no, io non è, ce l'ho detto, ho salutato, ma è sempre modulazione, deve essere che non mi hanno capito. Però non è che, capito, non è che mi sono comportato male né niente, non agito nulla. Agito così e vai, fin, come si fa sempre, scherzando, capito. Ma non è che agito nulla in particolare, no. Non capisco perché uno si deve arrabbiare. Ma io, ripeto, l'ho già detto poc'anzi, sarebbe ora di fare gli uomini, di comportarci da uomini, non da bambini. Così almeno ne guadagneremo tutti, mentre invece se ci comportiamo da bambini allora è un pasticcio per tutti, mentre invece se ci comportiamo da persone adulte tutto funziona bene, no, non ci sono dubbi, e la passione continua. Poi certamente se le cose invece incominciano a degenerare è ovvio che io cosa fa, ma chi me lo fa fare, prima so che io meglio chiudo tutto e trovo altri argomenti in altre cose, non al baracchino. Per cui non mi interessa di più, chiude tanto, figurati. Lui, vabbè, comunque, sia mezzani a tua futtidini, lascia perdere. Sei orientato? Pure io. Non ho capito, chi è? Ho detto pure io sono rientrato, pure io. Ma cosa farò qua, ma non c'è nessuno, pensavo che eravate lì sul 10, buonasera. Ciao Lugarie, no, io manco sto ascoltando sul 10, ho acceso la radio, era qua come ieri sul 30, sono rimasto in ascolto sul 30. Ha chiamato Antonio e ho risposto, poi è entrato Giulio e siamo qua. No, ti ripeto, io non ne devo stare a fare, cioè a commentare, a dire, a fare, non mi interessa, io non ho giudicato nessuno, non voglio essere giudicato, assolutamente, quindi ognuno vada per la sua strada, io vado per la mia, non ho problemi con nessuno, a me mi vale stare qua perché è più silenzioso il canale, è più pulito, è più tutto qua. Ciao Lugaria, buonasera, ben ascoltato, avanti Giulio. Ok, ciao Luca, ben entrato. No, ma io poc'anzi ho ascoltato 30 secondi lì sul 10, ma non mi è sembrato che ci fosse niente di diverso o qualche alterco, no, assolutamente. C'era Gianfranco, c'era con Gianni Lugo Fretta, e poi per un attimo è entrato, come si chiama, Tonino, ho sentito anche Tonino, ma era un po' lontanuccio, per cui lo sentivo, ma non molto forte. Ma poi per il resto non ho sentito niente. Poi se è successo qualche altra cosa prima, precedentemente, non lo so, non so cosa dire. Assolutamente, perché io appena vi ho sentito l'Ubreffetta dicendo no, sento gli splatter di Antonio sul 30, allora sono passato qua e basta, detto, vediamo che c'è sul 30 allora. Ed è come qua, niente di più. Vai Luca. Vabbè, non c'è problema, a me già, no, ci sto bene per fare due chiacchiere, bene, se no va, abbandono e niente. Io sono fatto così, ormai il carattere mio è questo. Mi dispiace perché non è bello, molte volte manco saluto, ma non mi va, non mi stufo, mi allontano, abbasso un po' il volume e me ne vado in soggiorno. Lo so, quello sì, ma appunto sto dicendo, quello che io penso che sia arrivata l'ora di fare tutti i segni, le persone segni, o meglio le persone adulte, avete considerato che siamo tutti grandi, bambini no, non ce ne sono più, perlomeno l'età l'età ce l'abbiamo tutti quanti abbastanza avanzata, per cui non mi sembra il caso di stare lì a né a giudicare né a sindacare né niente. Andiamo avanti in santa pace e armonia e sopportiamoci a vicenda senza fare nessuno deve essere permaloso e niente di più. Cosa vuoi che ti dica? Tanto tutto sommato alla fine cosa vi guadagniamo o cosa ci perdiamo? Niente, quando facciamo i conti, spegniamo il baracchino come eravamo prima, siamo rimasti dopo, anche dopo aver spento, per cui non c'è problema. Avanti bombolo. Vabbè, la riprendo io, è così, è fatto così. Che se ne frega, no, non devo dare da nessuno, riprendi qua. Sì, ma infatti non c'è bisogno di polemizzare niente, ripeto, io non so cosa è successo, forse Antonio era alle 10, poi ha chiamato 4:30, ho risposto io ed è rimasto qua. Ma io ero qua anche perché stavo aspettando che entrasse Tino, dovevamo fare un po' di prove, ma non succede niente, cioè se io devo mudare il canale 10, vado a mudare il canale 10, io non faccio un dago nessuno. Però è un po' di giorni, io questo canale 10 è uno schifo totale, ma non per la gente che c'è, per carità, me ne guarderei bene. Perché c'è sempre gente che disturba, che fa, ruttano, fanno, fischiano, pernacchie. Alla fine gli ho detto, ma io devo andare in Chivi a girarmi i bibiricchi. Ma io sposto un po' di canale e mi faccio due chiacchiere, come ieri sera ho fatto due chiacchiere con Tino, con Massimiliano, qua con Antonio. Abbiamo fatto delle prove, eccetera, ma per carità, io non c'ho niente con nessuno. Non è che me ne sono andato al cane 10, non parlo assolutamente. Sono andato un attimino. Sto qua perché è più pulito, se poi qualcuno si vuole spostare che si sposti. Non è un problema per nessuno. Non è che devono nascere polemiche, ripeto, io non so cosa è successo nel canale 10 tra Antonio e Tonino e compagni, ma sono cose che si possono tranquillamente discutere senza bisticciare, tutto qua. Vabbè. Ognuno faccia quello che crede e quello che vuole. Per me non ci sono problemi, io vado avanti tranquillamente senza problemi. Poi se ho voglia di parlare nel 10, se c'è silenzio e tranquillità, posso parlare nel 10, se voglio parlare nel 20, parlo nel 20, nel 30, nel 40, e dimmi piatti, non devo domandare permesso a nessuno, come gli altri non devono chiedere permesso a nessuno, tutto qua, avanti a dopo. Il problema è che sono entrato un attimino per salutare così, come si fa, ne manca a me dove devi domandare permesso, si può dire, e sono un attimino, però non avevo capito chi c'era, chi non c'era, però ho detto ciao, ci sentiamo, però l'ho detto sopra modulazione, capito? E una persona mi sto cercando verso Brattavola, mi ha detto sento pio, ti sento pio. Però qua mi arrivava forte, e ho detto vai cosa pio, ma ve l'ha detto così a buffonente, capito? Ve l'ha detto, non è niente in particolare. Non avevo capito che era cosa. Tutto lì il discorso, ma non ha già fatto un dai mari, no? Cioè, là si può risolvere, capito? Non è che sia successo niente. No, ma siccome ho visto che è entrato Tonino e ti ha ripreso, volevo capire cos'era successo, ma... E ripeto, tanto io ho altri pensieri per la testa, non sto pensando alla radio, quindi... Se, ti ripeto, riesco a farmi due chiacchiere di santa pace, va bene, se no abbascio il bruciante, tutto è una bella mia televisione, non è un problema, che sia il canale 10, il 30, il 40, il 50, il 60, non me la fotti nulla. Io continuo a ribadire che ognuno è libero di andare dove vuole e parlare con chi vuole, senza avere problemi con nessuno. Questo è quello che penso io, per carità, se poi c'è qualcuno che la pensa diversamente, che mi dimostro il contrario, io non devo da nessuno, capito? Nessuno deve niente a me, quindi siamo tutti liberi di fare ciò che ci pare e piace, sempre nella tranquillità e nel rispetto reciproco verso le persone, questo è quello che penso io. Avanti Luca. E poi ci sono le persone tramite in culo, scusando il termine. E vabbè, di quelle ce ne sono tante, ma basta lasciarle perdere, basta, e alla fine fa vedere con muro, vuoi ti dire la lavagna e il balcone, vai giù. Non sia buffonente, però se uno non lo capisce che sto scherzando, vai, finirà giudito. Però non era niente di particolare, non era, è che ce l'hai bigliato in modo che non se l'hai bigliato. Poi io non sono neanche un non sono mai stato un maleducato prima di tutto. E non lo sono, punto e basta. Ma non è un problema, se ne vuole discutere io discuto, non è un problema. Comunque finito il discorso, basta così. Poi se uno vuole venire e ne vuole parlare con me, per me non c'è problema, io so dare le spiegazioni giuste. Ehi, vabbè, tutti musini, dai, cambiamo discorso, perché intanto non ne vale la pena nemmeno discutere. Prima di tutto perché non è successo niente, stando a quello che stai dicendo tu, penso che anche tu Nino sia d'ascolto, sia d'accordo, non credo che ci sia niente da dire, per cui adesso questo era l'argomento di discussione, ma possiamo benissimo cambiarlo tranquillamente. Io ripeto, io sono sempre appassionato del baracchino, perché lo accendo, anche se non ci parlo lo accendo sempre, non sempre sono all'ascolto, perché ad esempio stamattina l'ho acceso, saranno state le 10, una cosa del genere, e l'ho spento intorno alle 2, era col volume abbassato, ma io ero addirittura lontano, non ero nemmeno nella stanza dove c'era il baracchino, ma l'accendo solamente così per farlo scaldare eccetera. Al limite, se poi ho voglia di ascoltare, aumento il volume e basta, ma niente di particolare. Me ne sono salito su, mi stavo giocando, tra virgolette, e mi stavo costruendo un qualcosa che mi può servire, niente di particolare. Cioè, i momenti per poter andare avanti nella giornata ce ne sono tanti, e uno se ne inventa anche, fa quello che crede, un po' alla televisione, un po' al computer, un po' fa un po' di hobby di qualsiasi genere e tira avanti, no? Poi alla mia età cosa devo fare? Capita, al lavoro non ci devo più andare, eh? In giro con gli amici non ci posso più andare a causa del Covid, per cui tiro avanti così. Ormai diciamo che sono abituato a restare a casa, e tutto sommato devo dire che mi dà fastidio che non posso uscire, però non più di tanto, perché intanto so che anche se mi dovessi lamentare non è che non cambia niente, così è e così rimane, per cui tiriamo avanti. Ok, avanti qua. Così è, dai, no, non è successo niente. Va bene. Quindi fate silenzioso qua. L'altro giorno eravamo sul 40, la stessa cosa. Due chiacchiere, un'oretta, senza Ruti, senza Bernacchi, senza Ruti. E quello è il problema. Poi ripeto, ognuno è libero a fare quello che vuole. A casa sua io non mangio anche sui piazzi. Ascolti. Avanti, Lugariello. Attention, la frequenza, attention, sono anche io, sono in quel Rix, ragazzi, che sto facendo uno spezzone di cavo. Sì, ma al telefono rispondi però, capito, che sei preoccupato. Allora, tu non ci crederai, ho chiuso adesso, Claudio, ho chiuso adesso perché ero con Antonio Riserva, che mi doveva dare delle misure di un'antenna, e poi ci siamo usciti nelle camere di mezzo. Già compreso, pensavo stavi parlando con il nuovo Presidente della Repubblica. Lo sai, anche tu quando mi chiamo a madre, che cacchio, sei col telefono, sì. Dammi 10 minuti, dai, che finisco queste saldature e poi cambio la marovana a cicappuglio. Aspetta. Vediamo, attimino. Niente di fare, c'è anche il carretto, vabbè, comunque, ho parlato con chi. Ok, sa, è vero che dovrebbe essere così, dai, vediamo dopo. Vabbè, ma tu puoi vedere anche a te Biasi, già te lo dico io che cos'è, per certo. 5 euro di spesa, te li cambi o te li fai cambiare e quello torna nuovo come prima. Vabbè, ti chiamo quindi o fai quel lavoro, ti chiamo dopo. Chiamami, dai, abbasso la radio, ti metto di voce, nel frattempo uno saldo. Va bene, dai, allora Bianco per me un attimo, il cambio per Luca, che io faccio una telefonata un attimo mattino, ok, vai Lugarie. Sì, un attimo, mi sto mandando un messaggio, sono qua. Ah, futidini, Antu, fregatene. tanto cosa va a Buttirinde. Allora, sto guardando una cosettina qua, riesci a vedere, sì, tanto, c'ho il telefono, ogni tanto si impalla. Bene, sto uscendo, sì, vado bene. A voglia, sei forte qua. Perché mi sei dato, mi innesca questo microfono. No, qui sta uscendo bene, qui da me arrivi bene, non c'è nessun problema, Luca. Non problem, per cui va bene così. Ti volevo chiedere, quell'alimentatore cinese, diciamo così, no, da 50 anni mi sembra che avevi preso, da quale ditta l'avevi acquistato, o Luca? Forse era preso il B. Forse si è allontanato da... Vabbè, dai, dopo casomai quando rientra glielo chiedo di nuovo. No, così per curiosità, niente di più. Non è che mi sirvi, però avete considerato, perché mi sembra che aveva detto qualcuno, adesso non mi ricordo chi, che costava 20 euro, 25 euro, una cosa del genere, ma con una cifra così, anche se non ti serve, uno dietro a giro lo compra, e per ogni evenienza ce l'ha, se dovesse capitare di averne bisogno, necessità. Non ti sembra che sia così, Antu? Era giubiliato in occhi, in Sassari, però ho preso quello da 30, quello da 50 non ce l'avevano, l'ho preso da Muraglia. Cioè dai cinesi, Muraglia è esattamente quello che c'è a fianco a Città Mercato, in quella piazzetta, così. Onde è di là, ci ho comparato, l'ho comprato lì. Ho capito. E se che c'erano, dai, c'erano. Vabbè, la 30 ampere va bene lo stesso, non è che non va bene. Perché quello che sto usando anche adesso è da 30 ampere. E comunque hanno la ventola lo stesso, vero Antonio? Anche quello ha la ventola? Sì, per forza, perché deve raffreddare il circuito. Lo senti? Sì, si sente. No, quello che ho io è lo stesso, è della marca Telecom, c'è scritto davanti, però è switching praticamente, anche quello alla ventola e volevo, solo per quello, magari per cercare di eliminare la ventola, alle volte questo rumorino, ma non a chi mi sta ascoltando, perché magari con la modulazione la copro il rumore della ventola. Ma perché mi dà fastidio a me, un gol hanno segnato, mi stanno facendo tifo. Vabbè dai, tu mi dai, ma così la questa volta, chiedimelo, vai, se lo vuoi sapere te lo dico. Cosa era? Io l'applicazione Gol Alert nel telefonino, no? Perché quando ci sono le partite di calcio mi arriva sempre la notizia quando iniziano, ad esempio con un fischio che l'arbitro dà al calcio d'inizio, se c'è un gol lo stesso, allora gridano gol, ecco, quello che hai sentito poco fa era proprio quello, vuol dire che qualche squadra ha fatto gol, allora io guardo e so qual è la squadra che ha fatto gol e i risultati, capito? Tutto lì. Quando finisce pure il primo tempo, allora fischiano, è il primo tempo, poi alla fine quando finisce la partita ne fa tre di fischi, pri, capito l'arbitro, no, finita la partita. Insomma, l'ho fatto per essere aggiornato sempre con tutti i risultati di tutte le squadre del calcio, ma anche straniere, non solamente le squadre italiane, ma anche le squadre straniere. Mi arriva questo messaggio sempre, ma già da un paio d'anni almeno, dai, l'avevo fatto questa applicazione e l'ho tenuta sempre, niente di più, capito? Ma tutto questo per chi è appassionato di calcio, se a uno non interessa il calcio non è da fotti nulla di mettersi con l'applicazione lì, quanto? No, già è bello comunque, perché almeno vedi tutte quante le partite, capito? Beh certo, in effetti è così. Le partite, poi vedo anche le partite, se io c'è coso, c'è live, aspetta come si chiama, che lo guardo, l'app come si chiama, che non me la mento, aspetta un attimino, ti dico subito, allora, speriamo, ecco, questo è. Live football, si scrive football, si scrive live football, si legge live football, vuol dire calcio, no? E lì attacco quelle, vedo le partite, tutte le partite che danno, anche le partite straniere, non c'è problema. Sempre tu mi dirai, ma ti consumi la scheda? No, perché ho la, intanto ho internet, no, devi avere internet. E poi sono interfacciato con la linea di casa, per cui non mi consumo nessuna scheda. Ma oltre ad averlo nel telefonino, quello ce l'ho anche nel tablet, eccetera, eccetera. Dunque le partite le guardo così, a scrocco, in poche parole. Solo che il commento magari può essere in portoghese o può essere anche in un'altra lingua, però va bene, vedo le partite, le vedo, insomma, ecco, tutte quelle che voglio. Gaffa, meglio così. Allora volevo un pochettino la partita. Oggi non è che abbiamo lavorato tantissimo. È bello, io stavo, adesso vedo un po', volevo rimettermi la Formula 1, ma mi pare che me la fai come l'anno scorso in differita e risparmio quei soldi. Anche quello, col tablet, anche quello vedo, vedo tutti gli sport io, guarda canestro, calcio, ciclismo, motociclismo, motocross, tutti gli sport che voglio vedere col tablet, tutti i film della Rai, tutti i film di Mediaset, tutti i film di Sky, di tutto quello che voglio col tablet, basta avere l'applicazione, non c'è problema. Tu mi dai, ma lo vedi nel tablet? Sì, lo vedo nel tablet, allo stesso tempo ho una apparecchiatura che l'attacco al tablet, cioè alla televisione, poi accendo e passo in modalità live nella televisione e lo vedo grande nel televisore da 44 pollici che ho a casa, oppure in quegli altri, perché ne ho 5 televisori installati a casa e tutti i giorni li usiamo tutti, perché la casa che ho io è a più livelli, quando sono giù lo usiamo giù, quando salgo nel salone c'è nel salone, quando salgo nella zona notte c'è nella zona notte, quando vado in mansarda vai in mansarda, quando entro in camera e mi figliura vai la televisione altrettanto lì e così via, quanto. Per cui col tablet comunque vedi tutto il mondo, tutti i film, tutto, qualsiasi cosa, insomma, ecco, i notiziari, la CNN, anche dall'America, eccetera, capito? Sì, ma cosa è tipo, come si chiama? Cos'hai fatto, tipo un Sky Go? Che cos'hai? Di applicazione, perché io c'avevo, come si dice, c'avevo 9 TV, c'avevo, mi guardavo la Formula 1. Io TV Tap, e con quell'applicazione lì vedo tutti i programmi televisivi, eccetera, sia di sport, sia di film, notiziari, eccetera, eccetera, e di tutte le cose. Oppure per vedere le partite, se non uso quello, che tra l'altro c'è anche lì TV Tap, però Arena 1, Arena 2, Arena 3, o addirittura direttamente su Sky, oppure da Zone, tutte queste cose qua, tutto c'è, tutto indistintamente, tutto quello che stanno in televisione, io lo posso vedere col tablet anche. L'unico problema è che quando vedo una partita, no? Rispetto alla partita, all'orario giusto, è magari un minuto e mezzo indietro, però la partita è quella, per cui non c'è problema. Quello di Nafuti, se la partita è iniziata da un minuto e mezzo, magari prima e tu la vedi un minuto dopo, non ti va sempre più niente, non c'è problema. E questo discorso vale anche, per esempio, facciamo l'esempio, io stasera ero giunto a Bernetta, stavo ascoltando un programma della televisione, giù nella sala c'era mia figlia che stava guardando lo stesso programma nell'altra televisione, perché era nella sala, beh, lì arriva leggermente ritardata la voce, per dire, le parole che senti nel televisore del tavernetta sono leggermente avvantaggiate, ma di 3 secondi meno, 3-4 secondi prima di quella che magari che c'è nella sala. Tutto questo perché? Perché si chiama il ritardo della propagazione, o meglio la velocità di trasmissione via campo. Se tu hai un'antenna vicino al televisore arriva subito, mentre invece in un televisore più lontano c'è più filo e il segnale arriva leggermente ritardato, capito quanto? Ma va benissimo lo stesso, non c'è problema. Io non so già come funziona il regalo, ma cosa mi vuoi regalare? Mi ha mandato un messaggio, ti regalo questo e questo e quell'altro. Ogni tanto mi dice una cosa nuova. Accetta, quando sono cose regalate accettare sempre anche per non offendere chi ti fa il regalo. Per lui sia bello, sia vero, putti dimmi, tu digli sempre che è bello, che ti fa piacere, a lui e la me siamo duduio, non devi dare niente, nessun resoconto a nessuno. Così ti arriverà un pagamento da voi. No, col tablet no, col tablet no, assolutamente. Niente da fare, col tablet no. Non paghi proprio nulla, nulla del tutto. Interessante avere internet. Se tu hai internet, intanto più o meno ormai il computer a casa ce l'hanno quasi tutti. Allora se hai la linea internet, il tablet va interfacciato alla linea di casa. E tu fai quello che puoi vedere tutto quello che ti ho detto, capito? O altro. Naturalmente poi c'è il canone di internet, ma internet perché hai il computer, è solo lì la linea quella, no? Capito? La linea telefonica che se poi hai internet, tu se puoi possiedi un tablet, io ne ho 4, te puoi immaginare, perché qui ne abbiamo tutti quanti, ne abbiamo, quando fai da voi il computer, per dire, no? Puoi vedere perché? Perché il tablet va interfacciato col numero di casa e allora non ti consumi scheda, niente. Diversamente ti consumeresti la scheda e allora spono una battita, la scheda te la mangia subito. Invece così la linea di casa non si consuma mai, e quella è bassa, capito? Già lo so già. Ora c'è un 20 giga, mi pare sono roba di 50, non mi ricordo adesso. C'ho 80 giga. E non riesco neanche a finirlo, la verità. Non riesco mai a finirle perché sono a palla proprio. Ma anch'io ne ho 50 giga, 1000 e oltre messaggi, telefonate così tra tutta la vita, telefonando che non li consumo, però appunto, di nuovo un altro gol, sentito, stavo dicendo, però interfacciando il telefonino con la linea di casa, quei giga non li consumi mai, te rimangono sempre, non consumi niente, del telefonino non consumi niente, niente di niente. Interessante avere la linea di casa, interfacci il telefonino con la linea di casa e non consumerai mai la scheda del telefonino, tutto lì. Questo vale per tutto. Non solamente per vedere le partite, ma vale anche per tutto, per cui andavo così, vai. Kappa, sì, lo so. E su Gubbi Incendi di Bunimea, che cosa su Gubbi Incendi quest'anno? Per vedervi almeno con qualcosa, perché TV non ne guardo mai, TV, la verità, la TV non la guardo. Cioè la guardo pochissimo, però magari capo voglio vedermi qualcosa, voglio vedermi e via, capito? Me la guardo, cioè roba di sport, mi interessa la Formula 1 a me, basta. Tanto la televisione, qualcosa di sport così, o qualche film di una volta che mi piace. Per me sono tutti pagliacci, cioè ultimamente non sanno fare altro che reality show. Chi si gosi che a me non piacciono, no, e quindi non le guardo per quello. Sì, infatti nemmeno io quei programmi lì non le guardo nemmeno io. Cosa me ne fotto a me di Maria De Filippi o del Grande Fratello? Non me ne fotte proprio nulla. Ma qui a casa già se lo guardano, sai, le donne queste cose le guardano. Ma io mi guardo altre cose, mi guardo i film, mi guardo la politica, mi guardo lo sport, o il calcio, o le trasmissioni sportive, dai, eccetera, eccetera. Ripeto, solo le partite, le guardo nel tablet e poi me le ingrandisco con quell'apparecchiatura che ho, me le ingrandisco e le vedo nella televisione. L'unico problema è che il commento della televisione, anziché essere in italiano, raramente è in italiano. Magari può essere in portoghese, può essere che so io anche in francese o in inglese, tanto per fare un esempio, no? O in spagnolo, ma non mi dà fuori niente, intanto a me il commento del telecronista poco mi interessa, o al limite se proprio voglio sentire il commento, ma accendo la radio, faccio ascoltando la radio e guardando la partita, se proprio voglio il commento in italiano, e se che posso ovviare all'inconveniente, se così si può chiamare, come niente, che a me, ripeto, non me ne appunto nulla di ascoltare il cronista, ma abbasso il volume e guardo la partita e basta. Io la voglio vedere con le mie occhi, senza essere soprattutto condizionato dal commento del telecronista. Non me ne appunto nulla di quello che dice lui, voglio vederla io la partita, come stare allo stadio, in poche parole. Gaffa, è rientrato qualcuno? Avanti. Scusate, Claudio. Ciao Tino. Oh Giulio, ciao, sono Tony. Mi dai un controllo radio, Giulio, per cortesia? Senti, sei in saturazione? No, assolutamente no. Buonissima la radio, perfetta, chiarissima, bella, pulita. Segnale poi non ne vedevo. Sì, 9.25 passate, 9.28, dai, 9.27.28. Se che ti puoi immaginare, nonostante il segnalone, la radio è perfetta. Perfetta alla grande, Tino. Sono rientrato. Va bene, grazie Giulio. No, perché ho notato una cosa, aspettate un attimo, scusate. C'è anche mio figlio. Gli ho dato un pochino di vato di entrata. Fra, noti qualcosa? Anche tu Giulio, poi mi dai la tua conferma, Così puntello così. No, io direi di abbassarla appena l'ingresso, perché io ti sento leggermente smorzato. Non è del tutto saturo, ma leggermente te la stai portando via la radio. Bene, come passato, Ho rimesso. Come ricordavo io era così, aspetta. Ecco qua, era così come lo usavo qualche giorno fa, Sì, più o meno ci siamo. Più o meno ci siamo, lasciala così. Sì, va benissimo Tino, no, non c'è problema. Ma anche prima era accettabile nel senso, non c'era questa inclinazione della qualità della radio, proprio, ma una cosa proprio minima, ma minimissima anzi, considerando il segnalone, cosa vuoi pretendere? È chiaro, con un segnalone così è ovvio che poi ci potrebbe anche essere una piccola inclinazione della qualità, ma più che ottima, era radio, per me era sempre perfetta, non c'è problema, Tino, avanti. C'è anche Antonio comunque. Non era niente di particolare, la compressione bassa si sentiva, ma non è neanche saturazione, non era niente di particolare. Va bene, ciao Antonio. No, perché sto provando, avevo problemi di massa di cavo, Giulio. Con l'altro cavo andava bene, però dovevo tenere il PL dell'ampli staccato. Invece adesso gliel'ho fatto con un cavo più buono e niente, l'ho rimesso come dovevo essere messo. Claudio, ti dirò che adesso sto lavorando intorno ai 5. diciamo 5, sì, voglio dire, 5 e 1. Va bene, sì, lascialo così che già va bene. Io mi allontano 5 minuti, ok, poi torno subito che mi ha chiamato anche mia moglie. Tanto riprendi tu e fai girare. Vabbè, per noi non è che così mi rendiamo un po' di forbice e quant'altro. Giulio, allora confermi, va bene così, lasciamo così allora. Ciao Antonio, ciao Giulio, riprendo più tardi che ritiro un po' di bailare qua e poi mi devo attingere a fare altre cose, ma sono in quel rischio. Ok, sì, no, va benissimo, non c'è problema, Uti. Poi casomai mi dici se credi quanto ne hai caricato, perché ripeto, è quasi 9 più 30, per cui un segnalone veramente, ma veramente bello e forte, di lusso. Vabbè, dai, comunque. Allora, un'altra cosa ti volevo dire. Magari hai il capo di discesa, che capo hai? Un 213. Gli spezzoni di che capo li hai fatti? Con un capo sottile? No. L'ho preso dalla caratta, quindi l'altro l'ho cambiato perché era un 58, non mi andava bene. Hai fatto benissimo. No, tu mi dirai, ma come mai mi stai facendo questa domanda? Ma te lo spiego, magari a qualcuno può sembrare strano, ma te lo spiego subito, perché la velocità deve, ogni capo ha la sua velocità di trasmissione, no? Per dire, il 213 ad esempio ha 0,66 come velocità di trasmissione, e se tu magari metti un altro capo che ha come espressione differenza di coso, poteva anche essere quello il motivo, però mi si ritiene che è lo stesso capo, si crede, va bene così, non c'è problema, ultimo lavoro, alla grande. Vediamo un po' se c'è ancora Antonio. Sono sceso giù un attimino. No, io ho l'H550. Scusate, dai, vi lascio perché devo fare cosa. Sono in quel rischio comunque. Ciao a tutti, dai, riprendi giù. Grazie. Okay, ciao T. Alla grande, comunque va benissimo. Cos'è l'H500 hai? Il 520 casomai? O come si chiama? Antonio? O ho sbagliato? Non è che volevi dire l'H155, no? Ehi! Ah, ecco appunto. No, perché l'H500 non mi risulta. Il 520 mi risulta, il 155 mi risulta, l'H1000 mi risulta. E tanti altri cavi, l'RG58, il 213 e così via, e tanti altri ancora. Ma l'H500 non mi risultava, ed è per quello appunto che te l'ho voluto chiedere, niente di più. Va bene comunque, non c'è problema, andi bene. Chi su Zaggio Borso? Dico un ottimo capo, è la verità. Sì, un ottimo capo, certo. Un capo a bassa perdita, velocità di trasmissione dell'81, poi cosa impedenza capacitiva mi sembra che, se ricordo bene, a 93-94, boh, adesso non me lo ricordo bene. Cioè un ottimo capo, non c'è che dire, va benissimo. Poi tra l'altro è anche molto flessibile, per cui è ottimo veramente. Avanti, chi era Claudio? No, forse ancora non è potuto rientrare. Avanti a tu. Facciamo l'ero di 58, non era male, però questo va molto meglio, va. Questo qua è un'altra cosa. Poi io, ma Giuseppe Trigavo, ti puoi immaginare la discesa? Perché l'antenna non è vicinissimo, è tutta potenza M. Sì, no, ma va bene, quel capo lì va bene, anche a riguardo delle interferenze, eccetera, le sfurie, eccetera, perché ricordiamoci sempre che quando si fanno delle interferenze negli altri ricevitori, per dire TV, eccetera, il discorso, ricordiamoci sempre, che dipende dal cavo, che è quello che torna indietro la radiofrequenza e fuoriesce dalla cassa stessa e va a finire nelle altre apparecchiature. Per cui, comunque, va bene, dai, ripeto, velocità di trasmissione 0,81, tu mi dai cosa vuol dire? Te lo spiego subito, magari non so se ti può interessare, ma comunque te lo spiego lo stesso. La velocità di trasmissione, per dire, parlando del 100%, questa qui, lo 0,81 fa la differenza da 0,81 sino a 100, e